Siamo parte di tutto, tutto parte di noi, tutto parte da noi. Siamo sempre connessi, siamo tutti connessi ma non tra di noi. È l'amore veloce che si accende e si spegne alla luce di un neon. Sono gli anni più belli, orecchini ed anelli. Se restiamo in silenzio, fa lo stesso rumore di un colpo di scena. È una corsa al successo, ma non vedi il traguardo già dietro la schiena. Non ti piace normale, se normale tu dire restare da soli. E tra gli occhi più belli, i tuoi occhi sono i più belli. Non dirmi dove sei, che è fatto prima o poi. È il mondo che ti cambia, ma noi cambiamo il mondo. Perché io ti conosco, sei come un mio difetto. Noi siamo causa effetto, noi siamo causa effetto. L'effetto che mi fai non mi spaventa mai. Sarà futuro adesso, adesso siamo noi. Perché io ti conosco, sei come un mio difetto. Noi siamo causa effetto, noi siamo causa effetto, noi siamo causa effetto. Con le mie mani nude a toccare le onde in un giorno d'estate, continuo a sentirti come il canto di una balena nel mare. Ma la notte mi vuoi e mi vuole per come mi immagini tu. Io mi sento diversa, non ho una risposta, la causa e l'effetto sei tu. Non dirmi dove sei, che è fatto prima o poi. È il mondo che ti cambia, ma ne cambiamo il mondo. Perché io ti conosco, sei come un mio difetto. Noi siamo causa effetto, noi siamo causa effetto. L'effetto che mi fai non mi spaventa mai. Sarà futuro adesso, adesso siamo noi. Perché io ti conosco, sei come un mio difetto. Noi siamo causa effetto, noi siamo causa effetto. Tra di noi lo spazio di un respiro che vivo. Tra di noi si può cambiare il mondo. Possiamo farlo adesso. Noi siamo causa effetto, noi siamo causa effetto. Non dirmi dove sei, che è